ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Sesta puntata. Mentre Miale Corbu conduceva Paolo in una specie di loggia coperta dove una donna serviva caffè e liquori alle persone che si degnavano di visitare il priore, zio Castigu introduceva Rosa ed Annessa nelle stanze attigue alla cucina. In una di queste stanze dovevano pranzare gli uomini, in un'altra le donne e i fanciulli. E in una terza, detta la stanza dei confetti, stavano i dolci e in un'altra il pane. E in tutte le stanze, basse e fumose, s'agitavano strane figure di uomini barbuti che preparavano i taglieri e i coltelli per il banchetto. «Quanto pane! Ce n'è per 100 anni!» disse Rosa con la sua vocina di vecchia, fermandosi davanti ai larghi canestri colmi di focacce bianche e lucide. «Magari, Rosellina mia», disse zio Castigu, che ascoltava religiosamente ogni parola della bimba. «E chi lo mangia tutto questo pane, l'orco?» domandò Rosa, chinando su un cestino l'enorme testa che pareva dovesse da un momento all'altro staccarsi dall'esile busto. Zio Castigu rise. «Se tu ritornerai fra 2 ore, Rosellina mia, vedrai che gli uomini mangiano più dell'orco. Eccone, uno per esempio che sfiderebbe l'orco a mangiare più di lui». Un grosso uomo, tarchiato, con un'abbondante barba rossastra, entrava in quel momento nella stanza del pane. Teneva in mano una fetta di carne bollita e fumante e un coltello a serramanico, e ogni tanto strappava un boccone coi denti, e se qualche tendine resisteva lo tagliava col coltello senza togliere la carne di bocca, e masticava con avidità mentre i suoi occhi d'un cupo turchino, luminosi e freddi, esprimevano una voluttà ferina. «Sì, ricordo», disse Annessa. «L'anno scorso passai di qui mentre pranzavate e sembravate tanti lupi. Ognuno di voi teneva sulle ginocchia un tagliere colmo di carne e mentre ne mangiava una fetta adocchiava già l'altra. Pareva che non aveste mai veduto grazia di Dio». «È festa, bisogna mangiare», disse zio Castigo senza offendersi. «Mangiamo noi e diamo da mangiare agli altri, ecco». Un altro pastore, giovine, bello, col corsetto rosso slacciato e adorno di nastri azzurri, s'avanzò sorridendo e offrì ad Annessa un tagliere colmo di carne fumante. «Bellina», disse galantemente, «questo è per te». «Santo Basilemeo!» esclamò la donna sollevando le mani e ritraendosi spaventata. «Tutta quella roba lì, e che ne faccio io di tutta quella carne?» «La mangi», disse l'altro con voce grave. Ella capì che non accettando avrebbe offeso il giovine. Disse cortesemente: «Beh, ebbene, avvolgimi questa roba in un fazzoletto, la porterò a casa». «A chi? A Gantine tuo?» «Gantine suo. Eccolo qui», esclamò zio Castigo. Infatti, il giovane servo entrava in quel momento, vestito a festa, col corsetto rosso orlato d'azzurro, sbarbato e coi capelli lucidi e lisci ricadenti sulle orecchie a guisa d'una cuffia di raso nero. Gantine appariva più grazioso del solito e Annessa lo guardò con tenerezza quasi materna. «Ho saputo che eri qui», egli le disse con malcelata gelosia. «Andiamo fuori, andiamo. Donna Rachele ti aspetta, ha bisogno di te». Le parole erano semplici, ma la voce insolitamente amara. Che aveva Gantine? Sembrava un po' triste e diffidente, e Annessa si turbò, ma al solito seppe fingere, ed anzi si mostrò offesa. «Donna Rachele sa quando devo tornare», disse lentamente. «Tornerò a casa quando mi piacerà». «Tu vieni subito con me», ripeté Gantine facendosi pallido. «Zio Castigo, diteglielo voi». Gantina è geloso, esclamò beffardo il giovane dal tagliere. Va, Bellina, va, egli ti comprerà il torrone. Del resto hai torto, Gantine. Siamo tutti fratelli qui, non siamo stranieri e nessuno tenta di rubarti la tua colomba. Fratelli? Gente tua, morte tua, rispose Gantine. Poi parve pentirsi della sua frase e rise d'un riso forzato. Annessa palpitò ma finse di non aver sentito le parole del fidanzato. Andiamo, Rosa, dammi la manina. Zio Castigo, se Don Paolo domanda di Rosa, ditegli che siamo già andate via. Uscì per una porticina che s'apriva in fondo alla stanza del pane e il servo la seguì. Da quella parte il luogo era quasi deserto, solo alcuni mendicanti, accovacciati tra le rocce e le macchie, divoravano il pane e la carne che il priore aveva fatto loro distribuire. Precisamente in quel punto, dove incominciava il sentiero della montagna, era morto il vecchio cieco che aveva condotto Annessa nel villaggio. Ella non ricordava nulla del misterioso fatto, ma ogni volta che era costretta a passare di là, le pareva di rivedere il vecchio mendicante morto. Provava un confuso sentimento di angoscia e di umiliazione e diceva a se stessa: «Egli mi ha condotto e lasciato qui, mentre poteva condurmi altrove. Sarei stata una mendicante, una vera serva, ma avrei sofferto di meno. Eppure in fondo, ella non concepiva la vita in altro modo, senza Paolo, senza dolore, senza passione. Ero nata per questo». Più che mai quel giorno, attraversando con Rosa e Gantine il luogo dove era morto il vecchio, ella si sentì umiliata e triste. Affrettò il passo e guardò lontano con gli occhi velati, col viso coperto dalla solita maschera di tristezza sdegnosa. Gantine la raggiunse e si mise a fianco, la guardò fisso. «Anna», le disse quasi supplichevole, «non essere così sdegnata. Perdonami. Anna, l'ho fatto per il tuo bene. Tu sai che le donne non entrano là dove sono gli uomini, o entrano coi loro mariti o coi loro fratelli. Io sono entrata con Don Paolo. Ebbene, egli appunto non è tuo marito, non è tuo fratello», rispose il giovane sospirando. «I miei amici vi hanno veduti insieme e hanno mormorato. La gente è maliziosa, Anna. Questa è nuova», ella esclamò con sarcasmo e affrettò di nuovo il passo, trascinandosi dietro la bimba pesante. Svoltarono, si ritrovarono presso il venditore di torrone. Più in là l'ospite povero esponeva le sue briglie ed i suoi speroni sopra una bisaccia distesa per terra come un tappeto. Nel vedere Gantine sorrise e fece addio con la mano. «Ebbene», disse il giovane servo avvicinandosi, «avresti per casa una briglia per una puledra indomita?» Ed entrambi guardarono Annessa e risero. «Anna», pregò poi Gantine, «mi permetti di offrirti una libra di torrone?» «Le puledre non mangiano torrone», ella rispose rassicurata. Gantine disse qualche altra parola, ma la sua voce fu coperta dalla voce assordante del tamburo che risuonò quasi lugubre nell'improvviso silenzio della folla. Il messo annunziava, con la sua voce rauca ed alta di predicatore, che alle 5 pomeridiane sarebbe cominciata la corsa dei cavalli. Verso le 3 pomeridiane Annessa, mentre attraversava l'andito, vide nel vano della porta semiaperta la grossa pancia di Prete Virtis. Col suo passo leggero e silenzioso, ella corse incontro al vecchio sacerdote e mentre spalancava la porta gli sorrise come non gli aveva mai sorriso. Il sole che batteva sulla facciata della vecchia casa e illuminava la straducola deserta penetrò nell'andito e indorò il viso smorto di Annessa. Il prete la guardava intensamente, Le sbatté sul braccio un fazzoletto rosso e turchino che teneva sempre in mano e poi le domandò: «Ebbene, a che pensiamo? Mi sembri pallida, donna. Sei malata?» «Io? Non sono stata mai così bene, prete Virdis mio. Venga, venga avanti.» Gli volse le spalle e corse ad aprire l'uscio della camera del vecchio asmatico. Ziu Zhu appariva assopito, ma appena scorse il prete si animò e si agitò. «E gli altri? Come va, compare Zua?» «Don Simone è uscito. Ziu Cosimo e donna Rachele sono nell'orto. Devo chiamarli, prete Virdis?» domandò Annessa con premura. Ma subito s'accorse che Ziu Zua s'era allarmato per la visita del prete e si pentì della sua domanda. «Adesso vado a chiamarli, s'accomodi.» «Annessa, tira su questo cuscino», le ordinò il vecchio asmatico. Ella accomodò i cuscini mentre il prete sedeva accanto al letto asciugandosi il sudore del viso e del collo col suo fazzoletto turchino e rosso. «Uff, sono stanco morto. Avete ospiti, Annessa?» «Sì, signore, due. Un ricco proprietario e un venditore di briglie.» «Vanno bene così i cuscini, Ziu Zua?» «Va bene, vattene», rispose duramente l'infermo. Ella s'allontanò e il prete s'accorse che il viso di Ziu Zua s'era fatto cupo, più diffidente, più brutto del solito. «Uff, quante mosche che avete! Annessa, perché non chiudi un po' quelle imposte?» Annessa socchiuse le finestre, uscì, si appoggiò all'uscio, ma per qualche momento non sentì che lo sbuffare del prete e i sospiri anelanti del vecchio. Brutto segno quando Ziu Zua sospirava così esageratamente. E prete Virdis lo sapeva, e anche lui sbuffava più forte del solito. Finalmente il vecchio asmatico domandò: «Perché questa visita a quest'ora? Avete fatto buona festa, compare Virdis?» «La festa non è ancora finita, compare Zua. C'è ancora la processione, la corsa dei cavalli, la benedizione.» «Ah!» riprese il vecchio con voce melanconica. «Chi credeva 2 o 3 anni fa che io non avrei più partecipato alla festa? Son vivo e sono morto. Tutto per me è finito.» Sospirò e abbandonò sui cuscini la testa cadaverica. 2 lacrime apparvero negli angoli rugosi dei suoi occhi, come gocce di rugiada tra le pieghe d'una foglia morta. «No», disse una voce grave e dolce, che ad Annessa non parve più la voce del prete Virdis. «Niente è finito, Zua Dacché. Tutto invece deve cominciare.» «Io sono un uomo morto, compare Virdis.» «Che cos'è la nostra vita davanti all'eternità, Zua Dacché? Un granellino di sabbia davanti al mare, una piuma nel cielo infinito. E le nostre pene più gravi e tutta la nostra esistenza e le sue passioni, i suoi errori non sono che soffi di vento. Oggi siamo vivi, domani saremo morti e solo allora potremo dire: tutto incomincia e nulla finirà.» Il vecchio sospirò ancora. «Sia fatta la volontà di Dio, compare Virdis, che egli mi prenda o mi lasci. Per me ormai è la stessa cosa. Gli uomini come me, anzi, farebbero bene a morire presto. Che faccio io nel mondo? Sono di peso a me e agli altri. Qualcuno del resto l'ha capito benissimo e pensa a spazzarmi dal mondo come si spazza l'immondezza da una stanza o da una strada.» Dietro la porta Annessa sussultò, si mise una mano sulla fronte e cessò di respirare per ascoltare meglio, e la voce di prete Virdis risuonò di nuovo, grossa e rauca. «Oh, che parole sono queste, compare Zua? Perché parlate così? E se vi sentissero? E credete voi che non ci sia qualche orecchio per sentirmi, compare Virdis? Ogni porta qui, ogni finestra, ogni buco è fornito d'orecchie per sentirmi, come ogni mano è pronta a colpirmi. Mi ascoltino pure, o che forse non parlo apertamente in presenza di tutti. L'eternità», disse poi sempre più ansante e agitata. «Voi parlate dell'eternità, compare Virdis. L'eternità è in questo mondo per chi soffre. Ogni ora è un anno, ogni giorno è un secolo d'agonia, ma badate, ripeto, sia fatta la volontà di Dio. Voi delirate, riprese prete Virdis. Ve l'ho già detto 1000 volte. È una malattia la vostra, una mania di persecuzione. E chi pensa a farvi del male? E perché? E se pensate questo, perché rimanete qui? E dove andare? Chiese il vecchio piangendo. Io non ho casa, non ho fratelli, non ho amici, nessuno mi vuole bene. Dovunque vada ci sarà sempre qualcuno che avrà intenzione di derubarmi. Tutti mi odiano perché ho con me pochi soldi. L'aria stessa è mia nemica e non si lascia respirare da me. Sua da che? Buttatele via allora questi pochi soldi o fate un'opera di carità. Quando non avrete più niente, quando non avrò più niente, sarà peggio ancora. Sarò considerato come un cane vecchio, come un cavallo vecchio. Va bene, vi uccideranno lo stesso, esclamò il prete. Sua, sua, il vostro male è davvero inguaribile. E siete voi che non avete timor di Dio. E siete voi che non amate nessuno, che non avete mai amato nessuno. Io? Sì, voi, compare Zua. Chi avete mai amato voi? I danari, soltanto. Quante volte vi ho detto, molti, molti anni or sono, compare, createvi una famiglia, compare, seguite i precetti di Dio. Nessuno meglio di me ha seguito i precetti di Dio. Io non ho mai peccato, non ho rubato, non ho ucciso, non ho deposto il falso, non ho guardato la donna altrui, ma Dio è ingiusto. Anche questa, Angelo Santos, gridò il prete battendo le mani sempre più irritato. Ora non c'è che un Dio cattivo e ingiusto. Vecchi, giovani, uomini, donne, tutti se la prendono con Dio. Molto comodo accusare il Signore del male che noi stessi ci facciamo. Ma bravo, Zua De Che, anche voi, vecchio pezzo d'asino, lasciatemi parlare, altrimenti schianto, perché io non posso sopportare che si offenda a Dio, questo no, È Dio che vi dice di non aiutare il prossimo, di non amarlo, di non fare agli altri il male che non volete sia fatto a voi? È Dio che vi ha detto di starvene sempre solo nella vita per non avere seccature, per accumulare denaro, per non avere responsabilità? E ora prendetevi questa, compare mio. Statevene solo per tutta la vita, solo, sì, appunto, solo, come un cane vecchio. Ziu Zua sospirava e gemeva, ma non osava più protestare perché in fondo dava ragione al vecchio amico. E il vecchio amico proseguì. Sì, è proprio Dio che vi consiglia l'avarizia e che vi dice nascondili bene i tuoi soldi, Zua, nascondili e amali sopra ogni cosa, anche più di te stesso. E non dare aiuto a chi sta per naufragare e ti porge disperatamente le mani. Abbiamo capito, disse il vecchio sollevandosi. Abbiamo capito. Voi non avete capito niente, invece. Ho capito, ripete l'altro che volle di nuovo cambiare discorso. Tutto il male ce lo siamo fatto da noi. Anche la gamba me la son rotta io. E ve l'ha rotta Dio? Se non andavate alla guerra? Ma tosto, prete Virdis si interruppe. Capiva che la sua visita poteva giudicarsi inutile, non solo inutile, ma anche dannosa. Alla guerra, gridava il vecchio agitandosi tutto, ansante, tremante, incosciente. Tutto potete rinfacciarmi, ma non questo. Alla guerra, sicuro, alla guerra ci sono andato perché mi ha mandato il re, perché alla guerra vanno tutti gli uomini forti, gli uomini di coscienza. Io sono andato e andrei ancora, e la marmora e bella clava e la medaglia, eccola, specchiatevi qui la medaglia, specchiatevi. La sua voce rabbiosa s'affievolì, le sue parole finirono in un rantolo. È finita. Prete Virdis non può dire davvero d'essere un uomo furbo, pensò Annessa dietro l'uscio. Fin da principio ella aveva capito che Ziu Zua deviava il discorso e provocava il prete, inducendolo a parlar male per non lasciargli modo di spiegare il motivo della sua visita. Ma compare Virtis era andato anche troppo oltre e aveva colpito troppo sul vivo il suo vecchio amico. Annessa adesso lo sentiva muoversi e sbuffare, incapace di rimediare al malfatto, ed anche lei stringeva i denti, arrabbiata più contro di lui che contro Ziu Zhua. Quella notte il vecchio ebbe un forte accesso d'asma. Annessa credette che egli dovesse morire e provò un sentimento di gioia e di terrore. Ah, se il vecchio moriva! Con la sua morte tutto si accomodava. Ma la morte è sempre un avvenimento misterioso e terribile. E nonostante il suo coraggio e il suo desiderio crudele, Annessa si spaventò all'idea che il vecchio dovesse morirle tra le braccia da un momento all'altro. Aprì quindi l'uscio di cucina e chiamò Gantine. L'ospite povero non era ancora rientrato. Il servo dormiva profondamente, anzi, russava come un vecchio, cosa che dispiaceva molto alla fidanzata. Ella dovette chiamarlo due volte. Egli si svegliò di soprassalto e stentò a capire quello che Annessa diceva. Poi entrò nella camera e si avvicinò al lettuccio. Ma invece di badare al vecchio, cominciò a pizzicare la fidanzata, tant'è che ella si inquietò. «Malanno che ti prenda, Gantine, sciocco, ti ho chiamato per questo!» «E dunque perché mi hai chiamato?» egli mormorò sospirando. «Non vedi che Ziu Zhua sta meglio di me? Perché respira un po' male? Vedrai che subito passa!» «Eh, Ziu Zhua?» gridò poi piegandosi sul letto. «Che c'è? Come va? Volete che chiami il dottore?» Il vecchio stralunava gli occhi, agitava le mani, quasi volesse smuovere l'aria intorno a sé. Ma dopo un momento si calmò e il suo viso congestionato riprese il solito colore giallognolo. «Compare Virtis!» mormorò. «Volete che lo chiamiamo?» domandò Annessa con premura. Egli la guardò, ma non rispose. «Adesso state meglio? Volete il dottore?» insiste Gantine, che si era seduto ai piedi del letto e non aveva intenzione di andarsene. «Il dottore, il dottore! Quando è che avete chiamato il dottore per me? Un po' d'acqua almeno datemi», borbottò il vecchio. «Acqua fresca! Eccola!» Annessa gli accostò il bicchiere alla bocca, ma egli assaggiò appena l'acqua e la sputò dentro il bicchiere. «È fuoco questo, non acqua! Nel pozzo non ce n'è! Portami un po' d'acqua fresca almeno!» Per tenere fresca l'acqua, Annessa legava la brocca ad una corda e la calava nel pozzo. Uscì dunque nel cortile e tirò su la brocca, versò un bicchiere d'acqua e s'avviava per rientrare quando s'accorse che Gantine le veniva incontro. «Che vuoi?» domandò. Egli la prese tra le braccia, la baciò con violenza e la rovesciò l'acqua. «Lasciami!» disse irritata, cercando di svincolarsi. Ma egli la baciò e la strinse più forte. «Sei o no mia sposa?» le diceva quasi anelando, cieco di desiderio. «Perché mi sfuggi sempre? Perché non vuoi mai vedermi? Prima non eri così, Annessa. Pare che tu non mi ami più. Lasciami andare, il vecchio aspetta!» «Lascialo aspettare, sarebbe meglio che morisse una buona volta. Se egli muore, i padroni potranno finalmente darmi i denari che mi devono e potremo sposarci. Ma intanto, Annessa, sta qui con me un momento. Tu fuggi sempre, si direbbe che hai paura.» «Ho paura, sì», ella rispose un po' ironica. «Sei onesta, lo so, e questo mi piace. Ma qualche volta puoi stare con me. Lasciami», ella insisté con voce aspra. «Torna, Annessa, ti aspetto», egli supplicò. «Fra 2 o 3 giorni devo partire. Se non ci vediamo stasera non potremo vederci più. Vieni, Annessa. Lasciami, vedrò.» Egli la lasciò, ma ella non uscì più, anzi si affrettò a richiudere l'uscio col catenaccio e non rispose ai lamenti e alle imprecazioni del vecchio.